Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Immaginate un cartone per le uova, ma grande un decimo di millimetro, nelle cui buche sono ospitati singoli atomi. Questa curiosa architettura è stata messa a punto da uno studio congiunto di ricercatori del Max Planck Institute di Monaco, dell'Università di Innsbruck, dell'Accademia Austriaca delle Scienze e anche del laboratorio LENS di Firenze, e potrebbe costituire la base dei computer quantistici del futuro. Già da subito però fornirà un nuovo e potente strumento per simulare il comportamento di materiali e molecole che ancora non esistono. Ci facciamo spiegare tutto da Tommaso Calarco dell'Università tedesca di Ulm e Stoccarda, nonché presidente del Consiglio Strategico Europeo per le Tecnologie Quantistiche, e che è stato poi coinvolto in prima persona in questo filone e lo è tuttora di ricerca. Buonasera Calarco. Buonasera. Parliamo almeno per ora di un simulatore estremamente sofisticato. Intanto ce lo descriva un po' meglio, insomma, di come ho fatto io. Ma dunque, guardi, lei l'ha descritto benissimo, perché il cartone per le uova praticamente è una superficie in cui dentro ci sono delle buche in cui ci possono stare degli oggetti. Nel nostro caso, se invece di farlo di cartone lo facciamo di luce, ci facciamo stare dentro degli atomi. Come facciamo a farlo di luce? Noi possiamo avere dei raggi laser. Questi raggi laser sono fatti di onde. Allora, se noi immaginiamo questa onda con delle buche e dei ventri, no? In ciascuna delle buche possiamo metterci degli atomi. Se gli atomi sono respinti dalla luce, perché preferiscono andare dove c'è il buio, stanno più comodi al buio, allora possiamo mettere un atomo in ciascun punto in cui c'è buio, e così abbiamo una bella griglia, griglia di atomi, un reticolo di atomi molto ordinati uno vicino all'altro, e così possiamo cominciare il nostro calcolo quantistico. Ecco, perché che cosa appunto consente di fare questa griglia di luce che intrappola degli atomi? Allora, il fatto è che, appunto, come dicevo, gli atomi desiderano allontanarsi dalla luce, preferiscono stare al buio. Dipende naturalmente da come io aggiusto questo fascio laser, ma senza entrare nei dettagli possiamo dire che io posso aggiustare questo laser in modo da creare delle barriere tra un atomo e l'altro. Posso alzare o abbassare queste gole e queste creste, no, delle onde di cui parlavamo prima, e creando dei reticoli con una geometria particolare, possiamo dire così. Esattamente. E non solo la geometria, ma poi alzando e abbassando le creste io posso fare in modo che gli atomi si accorgano in maniera più o meno forte di chi c'è vicino a loro, che interagiscono in modo più o meno forte per simulare appunto qualche cos'altro. Ecco, che cosa? Ad esempio dei materiali, oppure potrebbero essere delle molecole complesse. Ci sono due esempi molto importanti. Uno è materiali superconduttivi, materiali in cui possiamo far passare l'energia elettrica, la corrente elettrica, senza nessuna dissipazione, senza nessuna perdita. Ecco, qui sappiamo che questi comportamenti sono proprio legati a degli aspetti di tipo quantistico, appunto. Sì. E poi l'altro esempio? Un altro esempio potrebbe essere delle molecole molto complesse, come potrebbero essere in un futuro quelle di composti chimici, in futuro eventualmente anche il comportamento di composti che servono per fare delle medicine. Okay, non possiamo, quindi, siccome sono molto complessi, non possiamo simularli, è difficilissimo, è troppo complesso simulare, calcolare cosa fanno con un calcolatore normale, tipo quelli che abbiamo sul tavolo. Sì. Ecco quindi che entra il simulatore quantistico che riesce a fare questa cosa. Ecco, e qua spieghiamo anche perché c'era bisogno di mettere su tutta questa complicazione, no? Insomma, perché le volevo proprio chiedere, ma non si potevano fare queste simulazioni in modo tradizionale, con dei calcolatori tradizionali? No, evidentemente. No, purtroppo no, perché il calcolatore tradizionale riesce a fare dei calcoli in base a zeri, uni, dei numeri, e riesce a calcolare una cosa alla volta, praticamente. Certo. Quindi io gli do una domanda, lui mi fa il calcolo e poi mi dà la risposta. Perché gli oggetti classici, di cui sono fatti i calcolatori classici, stanno o qui o lì? Io posso avere un bit che è o 0 o 1. Invece no, il sistema quantistico lui riesce a stare nello stesso momento in 0 e in 1, in una combinazione di tutti i possibili numeri. Ecco che quindi se io gli do tanti input in parallelo nello stesso momento, ecco che il mio calcolatore quantistico riesce a trovarmi la risposta a tutti i corrispondenti problemi nello stesso momento. Insomma, alcuni problemi hanno una complessità che non è, diciamo così, smontabile, non è aggredibile dal calcolo tradizionale, ma che invece può essere aggredita da un tipo di calcolo che è quello dei cosiddetti computer quantistici, perché questo oggetto, come dicevamo all'inizio, è anche un po' un computer quantistico. Esattamente, possiamo dire che questo è un computer quantistico con un compito molto specifico che sa calcolare solo una certa serie di cose, e queste cose sono come si comportano certi materiali, certi composti chimici e così via. Però naturalmente questo è un esempio più specifico di una categoria molto più ampia di calcolatori quantistici che possono risolvere tutta una serie anche molto più ampia di problemi. È la prima che riusciamo a realizzare, ci sono già gli esempi proprio in questi laboratori che lei ha citato prima, in cui possiamo vedere che il simulatore quantistico riesce a fare qualche cosa che il più grande supercalcolatore esistente in Europa, in Germania, a Jülich, non riesce a fare. Quindi abbiamo i primi esempi di qualche cosa che quantisticamente fa molto di più di quello che abbiamo con un computer classico. Ecco, che cosa manca per trasformare questa griglia, questo cartone delle uova quantistico in un computer quantistico? Ecco, il simulatore, il cartone delle uova, è un oggetto nel quale prendiamo tutti gli atomi e facciamo la stessa operazione su tutti. Invece, se vogliamo riuscire a costruire un circuito per un calcolatore quantistico, dobbiamo riuscire a prendere ciascun atomo e fare delle operazioni specifiche, e in questo modo possiamo avere una potenza di calcolo molto maggiore. Molto maggiore. Va bene, grazie Calarco. Tante grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.